Friuli nel mondo. 179esima trasmissione dedicata agli emigrati. Nono Festival della canzone friulana. Con le orchestre moderne di Franco Russo e Gianni Safred vi trasmettiamo, cari amici radioascoltatori, un primo gruppo delle nuove canzoni friulane del Nono Festival di Pradamano, svoltosi nell'incantevole cornice del Parco Giacomelli, trasformato per l'occasione in un'autentica rapsodia di luci e di colori. Ascoltate pertanto I Ciampanii a Viodin di Lelio Chanton e Livio Tuni. Canta Gabriella Marchi. Di Beppino Lodolo e Otello Zuccolo, Nome no doi, canta Roberta Mazzoni. Listelis darì a lusi in calci la rosade de sere nus bagne colà in chistegno d'avril il profonde primavere volessi també. Ciao le la luna. Sance i gris han finito di cantare, anche lor l'han capito, come volimo rosa, su canta i rusignoi, un biel cantamul, signor e te besoi. Nell'interpretazione di Gino Corcelli, Mal di Fuc, di Lelo Chanton e Giovanni Langone. Olus di vite, dimmi che è e vivarai, fammi un bel clat ai voi, pardalo a ye. Amor, no hai per aulis, mas gisui di morì, il cibo assidis tu de, e io non pues dormir. Nessun ne basta l'anime, ma mal di fu calscu. Fantate biele, salvimi, cialami culto cu. Vite di luz, toccino ben pardut, ci chatarai, dentro di mio varai, la vita tu, ci chatarai, dentro di mio varai, la vita tu. Ne basta l'anime, ma mal di fuca scur. Fantate, viele, salvimi, chalami kutoku. Vite di luz, te cigno ben pardu, te chatarai. Dentro il mio varai la vita tu, ti chatarai. Dentro il mio varai la vita tu. Infine, Nostadimi così, di Angelo Peloi. Canta Fabrizio Ferretti. No, non sta di me più così. Non sta di me che il tuo amor al durerà tutte la vita. Io non domandi giuramenti, né promissi che domani e sarà sa te smente. Se tu me dici che sono il nome io d'alto cu, io non domandi noi altri per me. No, non sta di me lui così, non sta di me che il tuo amor non finirà mai più per me. Abbiamo trasmesso Friuli nel mondo, a cura di Ermete Pellizzari.